Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la notizia del giorno è che è stato assegnato a Roberto Baggio il Peace Summit Award 2010, è un riconoscimento che annualmente viene dato da tutti i premi Nobel per la pace alla personalità che più si è impegnata verso i bisognosi. Baggio, che fu pallone d'oro nel 93, sarà premiato venerdì ad Hiroshima. E gli è stato assegnato questo premio per, virgolette, il suo impegno forte e costante alla pace nel mondo e le relative attività internazionali. In passato questo premio era stato assegnato a Annie Lennox, a Bono, a George Clooney, a Peter Gabriel, Bob Geldof, a Cat Stevens e a Roberto Benigni. Questo il diciamo pure il fatto del giorno. Poi ovviamente domani c'è campionato, la giornata è piena di insidie, di trabocchetti, certamente è, come dire, propedeutica a un fine settimana che vedrà tre partite clou che possono, non certamente decidere, ma orientare ulteriormente il campionato. E sto parlando di sabato sera Juventus-Roma, domenica pomeriggio Napoli-Lazio e la sera, a maggior ragione, Inter-Milan. Quindi si tratta domani di far punti per non perdere terreno o comunque per meglio posizionarsi in attesa di questi tre confronti diretti. Noi però, come ogni martedì, dopo aver per esempio preso buona nota da Sky Sport 24, cioè appena informati che Hernanes non è stato convocato nella Lazio per scelta tecnica, e questo insomma è una di quelle decisioni che possono anche far rumore, Snyder non altrettanto non sarà della partita a Lecce invece per ragioni di cautela, ma in compenso l'Inter riavrà almeno Stankovic. Vi dicevo, come ogni martedì, partiamo dal calcio internazionale. Buongiorno dunque a Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, posso aggiungere che mi sembra una follia totale prevedere un turno infrasettimanale prima di Juve Roma al derby di Milano. Mi sembra che davvero che sia stato partorito il calendario senza i parametri giusti, perché non è possibile che non si possa far qualcosa affinché queste partite siano tra virgolette protette e non arrivino dopo un martedì, mercoledì, giovedì di Europa come settimana scorsa, un turno di campionato, un turno infrasettimanale. Cioè, mi sembra francamente illogico. Siamo completamente d'accordo e non è la prima volta che accade. Io vorrei proporti in ambito internazionale due storie di allenatori. La prima è molto breve perché insomma riguarda le due ultime partite. Però quando qualcuno dice, e io sono di questi, che per carità gli allenatori sono importanti, saranno anche decisivi ogni tanto, ma insomma che dipendono un po' dai giocatori, prendo per esempio Oxon e il Liverpool. Ha riavuto perdeva col Napoli alla fine del primo tempo nella partita di giovedì scorso in Europa League, è entrato Gerrard, gli ha segnato tre pere e ha mandato a casa il Napoli. Ha recuperato anche Torres nella partita successiva e ha mandato a casa con due gol di Torres il Chelsea. Parliamo di questi allenatori fondamentali? Ma guarda, io credo che gli allenatori siano fondamentali in negativo, nel senso che possono combinare più disastri. E questa è una storica tesi riveriana, questa, quindi sei in buona compagnia. Mi inchino a prescindere. Ecco, bravo. Nel senso che davvero quello che è successo tra Liverpool e Napoli, io credo davvero che debba una volta per tutte stabilire un confine. Cioè, questi giocatori non solo non dell'allenatore possono anche fare a meno, ma non è una mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore. L'allenatore ha un ruolo importantissimo, ma non fondamentale, nel senso che fondamentali sono i giocatori, nel senso che Gerrard è entrato in campo, la partita era Liverpool 0 Napoli 1, lui ha fatto veramente delle cose pazzesche e la partita l'ha spaccata in due. Ora, non ci sono al mondo molti giocatori come Steven Gerrard capaci di incidere in questo modo. Però è vero che i destini degli allenatori a maggior ragione stanno nelle lune in alcuni casi o negli infortuni o nelle altre cose, perché Torres è un giocatore che sembrava perso quest'estate, Del Bosque a un certo punto l'ha dovuto togliere per la disperazione perché sembrava davvero, cioè, era imbarazzante, nel senso che aveva perso completamente fiducia e non era più il giocatore che conoscevamo. C'è anche una componente psicologica, lui quando gioca contro il Chelsea diventa ancora più irresistibile. Detto questo, il Liverpool che io ho sempre considerato, ma continuo a considerare in una stagione che non sarà positiva, dall'ultimo posto in classifica e adesso è già nella parte sinistra, perché comunque poi anche in campionato sono arrivati dei risultati positivi e che sono figli quasi esclusivamente del recupero dei giocatori così. Non c'è dubbio. C'è un'altra storia di allenatore invece che insomma, è completamente diversa da quella di Hodgson. Lì si respira un'altra aria, un altro carisma, e lì l'allenatore incide, ma è anche un allenatore manager, è anche un santone, un nome tutelare. Insomma, Franco Piantanida mi ha un po' riassunto questi 24 anni festeggiati sabato da Ferguson sulla panchina del Manchester United, segnalando anche che in termini di longevità assoluta queste 1350 partite alla guida dello United, con 35 trofei conquistati, e quindi siamo ovviamente in piedi col cappello in mano, sono seconde solo a quelle di Giroud, che fu per 44 anni consecutivi l'allenatore dell'Auxerre dal 61 al 2005, e a Calderade sulla panchina del Chelsea dal 1907 al 33, ma qui stiamo evidentemente parlando di un altro mondo e di un'altra epoca. Ferguson. Beh, cosa possiamo dire? Io ti posso solo dire che in Italia c'è un allenatore chiamato Gasperini, che veniva chiamato Gasperson perché pensavano di paragonare non solo la sua capacità manageriale, ma anche il fatto che potesse avere una lunga vita. Insomma, lui è stato 4 anni sulla panchina del Genoa, e per noi 4 anni sono già un buon risultato. E Ferguson, un dato per tutti che a me piace ricordare, è che l'ultima volta che in Scozia ha vinto una squadra che non fosse o i Rangers o il Celtic, l'ha vinto l'Aberdeen, e alla guida di quella squadra c'era Sir Alex Ferguson. Quindi mi sembra davvero, siamo di fronte a un'immensità, siamo di fronte a un qualcosa di talmente vasto che non è possibile fare un paragone. Io credo che sia anche cioè ci siano anche comincino ad arrivare pulsioni affinché comunque l'era di Sir Alex possa fare le notte d'argento, ma non arrivare oltre. Però siamo di fronte a qualcosa di pazzesco, anche perché lui ha attraversato davvero anche situazioni societarie complesse, ha attraversato di tutto, ha attraversato anche situazioni di scontro, anche con Beckham, anche con giocatori rappresentativi, ha fatto veramente tutto. Quello che va detto, e vanno fatti i complimenti, io credo siano anche ai tifosi del Manchester United, ma non solo perché Ferguson ha vinto tanto, ha fatto vincere tanto, perché anche allenatori che hanno vinto in Italia o altrove dopo un po' quasi fisiologicamente stufavano. Ecco, lui è uno che non ha mai stufato, lui è uno del quale non si è mai sentita la necessità di liberarsi anche solo per ringraziarlo o anche solo per chiudere in gloria. Cioè, lui è veramente eterno, e quindi prendiamo buona nota di tutti questi record che lui continua a infrangere, tenendo anche presente che è molto difficile pensare a un qualcosa che si possa ripetere con quei numeri, fermo restando che secondo me quando un allenatore sta 6, 7, 8 anni alla guida di una squadra, diciamo che il tempo l'ha fatto. Con la capacità che abbiamo adesso di prendere, masticare e consumare tutto, quello mi sembra un confine. Adesso pensare che un allenatore possa stare 25 anni sulla panchina, mi sembra che sia il caso sia più unico che raro. C'è dubbio. C'è un'altra storia di allenatore che è appena iniziata invece, ma che è molto curiosa e che è molto interessante. Ne parliamo subito dopo un intervallo che sarà un po' turbato da questo messaggio che mi manda Andrea da Bologna. Dice: oggi su Stadio Corriere dello Sport, pagina 7, Mihajlovic dichiara: Mutu è un esempio per i giovani. Allora non so se farò tempo all'intervallo, insomma mi piacerebbe documentarmi su questa inquietante dichiarazione di Mihajlovic. La terza storia di allenatore e il resto tra poco, dopo aver sentito come va sulle strade. Da una rapida scorsa a questa frase attribuita a Mihajlovic, sinceramente non l'ho trovata sul Corriere dello Sport, può darsi che questa sia un'altra edizione, non ne ho sinceramente idea. La terza storia di allenatore curiosa come storia è quella di Villas Boas. Villas Boas la sottopongo ovviamente a Fabio Tavelli, che la conosce assai meglio di me. Villas Boas era fino alle prime giornate dello scorso anno il vice di Mourinho all'Inter. Ha fatto un'esperienza in una squadra minore portoghese, da quest'anno è alla guida del Porto. Bene, nelle prime 10 giornate di campionato ne ha vinte 9, una la pareggiata, quindi è quasi a punteggio pieno, 28 punti su 30, e domenica, così giusto per levarsi uno sfizio, il suo Porto ha schiantato il Benfica per 5-0. Che tipo è questo, Fabio? Ma è un tipo, è un Mourinho in sedicesimi per alcune cose, e devo dire che lui è stato sempre considerato l'anima tattica. Io penso che gli allenatori tante volte, ma questo è più per gli sport di squadra americani debbano essere molto bravi anche a circondarsi di assistenti che specificamente lavorino su determinate situazioni. Negli Stati Uniti ci sono gli allenatori dell'attacco, gli allenatori della difesa, e il capo coach viene appunto chiamato capo coach perché ha degli altri coach, e lui è stato di fatto la mano tattica di José Mourinho. E essendo la mano tattica di José Mourinho, da un lato Mourinho ha potuto beneficiare del fatto che questo è veramente uno scienziato, nel senso che viaggia, si documenta in maniera costante, è una persona che, se vogliamo, è anche un po' schiava della tattica, nel senso che non penso magari arrivasse a situazioni come quelle che mi ha raccontato una volta un giocatore del Milan su un allenatore che spostava nella 4 stagioni i funghetti piuttosto che i carciofini, indicando la difesa a 4 come doveva salire su un fuorigioco, però magari siamo vicini a questo. Quello che spesso manca ad allenatori così bravi tatticamente a preparare la partita è poi la personalità per tenere un gruppo, e in questo credo che Mourinho sia uno dei docenti con i titoli migliori per insegnare da questo punto di vista, o quantomeno per il rendimento che riesce ad avere dei suoi giocatori. Ecco, lui ha avuto la possibilità a Coimbra comunque di confrontarsi direttamente, perché un conto è preparare le tattiche che deve spiegare un altro, e un conto è poi andare davanti ai giocatori e mostrargliele e cercare di fargliele apprendere. È partito subito alto, nel senso che dopo il Coimbra gli hanno dato il Porto, e quindi diciamo che ha il vantaggio di poter allenare una squadra che ha degli obiettivi, che ha delle aspettative, ma che ha anche una capacità di costruire un sistema di gioco sulle indicazioni di un allenatore. Un conto è partire ad allenare una squadra che deve salvarsi, e un conto invece è partire da una squadra come il Porto. Devo dire che i risultati sono straordinari, e quindi siamo di fronte certamente a un personaggio singolare, certamente a un personaggio che in Italia ha vissuto totalmente nel cono d'ombra creato da José Mourinho, perché era sinceramente impossibile uscire a questo cono d'ombra creato da José Mourinho, però sicuramente siamo di fronte a un personaggio interessante che poi confronteremo quando vedremo in Champions League l'anno prossimo, anche con un calcio un po' più dinamico rispetto a quello lusitano. Sì, e al quale magari qualche presidente di casa nostra potrebbe anche fare un pensierino, se è vero che Moratti sta facendolo il pensierino su Spalletti in prospettiva di lungo, ma forse anche di breve termine, se la situazione all'Inter dovesse precipitare, cosa che mi sentirei di escludere, ma hai visto mai nel calcio, magari oltre a Spalletti potrebbe entrare in ballottaggio anche un personaggio come questo, che appunto sta rampando molto molto rapidamente, ma che comunque viene oggettivamente da una buona scuola. Ma guarda Gigi, posso solo raccontare, senza far nomi naturalmente, un grandissimo allenatore di una squadra di pallacanestro mi raccontò un giorno, lui aveva un vice allenatore molto molto quotato, che però ha avuto una carriera diversa da quella che si pensava, e lui disse una cosa molto molto semplice: un grande vice allenatore non è detto che diventi un grande allenatore, così come un grande allenatore o un allenatore non è detto che poi calato in una realtà di vice coach possa essere bravo allo stesso modo. Lo dico perché ad esempio negli Stati Uniti capita spesso che nel basket l'allenatore, il capo allenatore di una squadra, poi magari vada a fare anche l'assistente di un altro. E davvero non è matematico che un ottimo vice allenatore diventi un bravo capo allenatore. Villas-Boas ha iniziato benissimo. Ecco, questo direi proprio di sì. A proposito di allenatori, scrive Maurizio da Loreto, questa mattina Mondonico ha portato il suo Albino Leffe in visita al Museo del Grande Torino della Memoria Storica Granata per far capire loro veramente che cos'è il Toro. Bella storia, perché stasera l'Albino Leffe gioca sul campo del Torino, c'è una serata di Serie B stasera, e perché Mondonico negli ultimi 20-25 anni insomma è quello che più ha incarnato il vecchio e ormai estinto spirito del Torino, quindi l'ho trovata una cosa indubbiamente carina, e questo ascoltatore è stato bravo a segnalarla. Noi torniamo in campo internazionale farei un parallelo tra due estremi, Fabio, che è questo. Per la prima volta in Europa, nei campionati maggiori, nei 5 campionati che seguiamo, non ci sono stati cambi al vertice, è la prima volta che accade nel corso della stagione, sicché per esempio anche il Brest è rimasto al comando in Francia pur perdendo. Ora, la classifica del campionato francese è è di una compattezza assoluta, perché praticamente tolto l'Arla Vignon, che è ultimo, staccato a 5 punti, tutti possono vincere, tutti possono retrocedere, sono veramente in un fazzoletto. Senti che il Monaco è terz'ultimo. Ecco, il Monaco è terz'ultimo e ha vinto 4-0 fuori l'altro giorno, cioè sta succedendo di tutto. Il bello dell'equilibrio, diciamo. Dall'altra parte, e cioè in Spagna, c'è il bello in compenso di un duetto che, se vogliamo, è sterile ormai da tanti sono gli anni che va in scena, però ogni anno si arricchisce di nuove motivazioni, ed è quello tra Real e Barça, che non stanno più perdendo un colpo. No, e che si affronteranno nel weekend 27-28 novembre. Barcellona dovrà affrontare prima il Villarreal, quindi l'avvicinamento non sarà poi così facile, perché il Villarreal è in questo momento oggettivamente la terza forza, è l'unica che dia una sensazione di potersi quantomeno poter stare lì, insomma, aspettando magari la rottura di qualcuno, ma non credo. Ieri sera ho visto il Siviglia battere il Valencia e il Valencia mi ha tantinello deluso. Per quanto riguarda la sfida, beh, quest'anno si è arricchita di José Mourinho, e quindi già questo la renderà unica. Si gioca la prima volta sul campo del Barcellona. La sensazione complessiva è che le due squadre possano arrivare intorno agli 85-90 punti abbastanza comodamente. Quando c'è una squadra che arriva vicino a 100 punti non può essere mai un campionato equilibrato per motivi eminentemente matematici. A punteggi bassi è evidente che diventano, ma anche qui veramente stiamo sfondando l'ovvietà, ci sono più candidate. Si tratta sempre di decidere, è un campionato bello quello dove Real e Barça pacchettano tutti dalla prima all'ultima giornata e se la giocano di fatto in un playoff, o è un campionato migliore quello dove ci sono 15 squadre nel fazzoletto di 5-6 punti? Io dico dipende, perché se ci fosse un fazzoletto così stretto ma con in campo Real e Barça, allora direi che quello è un grande campionato. Siccome il fazzoletto è ristretto ma ci sono squadre abbastanza mediocri come quelle del campionato francese, se devo proprio scegliere scelgo ancora quello spagnolo, perché certo, comunque avrò due partite pazzesche che hanno quasi il valore di una finale di Champions League. 6 punti ci sono in Francia tra l'ultimo posto valido per la Champions e quello per non retrocedere. 6 punti dopo così tante giornate è effettivamente un fatto che non credo abbia precedenti, se ne ha pochissimi. Hai detto dipende, allora io mi aggancerei a questo dipende per l'ultimo minuto che ci rimane per questa prima parte. Poi nella seconda parte ci sarà Cassano, ma soprattutto ci sarà Garrone, che preciserà seriamente l'atteggiamento suo e della Sampdoria nei confronti di Cassano. Dipende, e cioè Balotelli è un classico dipende, no? Dipende se lo consideri un grande calciatore e allora hai due gol come quelli di domenica, in particolare il secondo. Dipende se invece lo consideri un soggetto inadeguato, direi, alla vita normale che si deve fare su un campo, e direi anche non solo sul campo, e allora ti ritrovi subito dopo queste due prodezze 3 giornate di squalifica che la Lega inglese gli ha inflitto. Ma il problema è l'affidabilità, è un po' come la Formula 1, tu puoi avere un'auto che fa un gran premio perfetto, ma se finisci la benzina un giro dalla fine non vai da nessuna parte, o se rompi il motore può essere fantastico, ti dà le grandi prestazioni, ma se poi lo spacchi. Il problema di Balotelli è questo, cioè lui non è affidabile, non, al di là poi degli infortuni che lo hanno un po' penalizzato, ma quelli fanno parte del gioco. E lui non può continuamente togliersi dalla possibilità del suo allenatore di schierarlo, cioè questa è una cosa secondo me gravissima. Io che sono un balotelliano, nel senso che adoro il suo modo di giocare, però trovo che debba imparare a stare al mondo, cioè lui non può pensare di essere ancora a Lumezzane a giocare con i suoi amici all'oratorio, cioè questa è un'altra cosa. Passi tutto, passi il fatto che non ride mai dopo i gol, e va bene, sono fatti i suoi, avrà i suoi motivi e non mi interessano, però lui non può prendere 3 giornate prima di un derby, quando l'ha vinta la partita, l'ha vinta da solo, perché non è così, perché poi le società non si fideranno più, perché gli allenatori non lo porteranno ai mondiali, perché in un mondiale non puoi prendere 3 giornate per una scemenza del genere, quindi capisce in che mondo vive, o altrimenti sarà sempre un incompiuto. Sì, anche se per la verità Prandelli ha appena dichiarato, mi pare aver letto, che lui pensa di convocarlo ugualmente, e questa direi che è un'altra non bellissima pagina, secondo me, del nuovo capitolo azzurro di Prandelli CT, ma di questo parleremo un'altra volta, perché la prima parte del nostro appuntamento di oggi è finita. Grazie Fabio. A voi, ciao a tutti. Chiudiamo questo collegamento, ci risentiamo tra poco dopo aver sentito come va sui mercati. Oggi sono veramente tanti gli argomenti, le cose da sentire, da proporre, da trasmettere, anche da leggere, perché molti di voi si sono esibiti in una serie di mail che secondo me valgono la pena di essere trasmesse. Vabbè, questa che è breve al volo, la scritta Anna Romozzi da Roma, dice: il bello del derby è vedere la partita insieme, romanisti e laziali, vedere ovviamente due partite completamente diverse, però alla fine caldarroste per tutti. Certo, le nostre erano più saporite. Al prossimo, una tifosa romanista di nome Anna. Non so se con questa serenità la partita l'abbiate vista allo stadio insieme, anche perché l'Olimpico mi è sembrato vuoto in una maniera impressionante, e di questo si è molto ma molto poco parlato a parer mio. Magari eravate in casa, e se invece avete trovato un settore di stadio in cui stare così e quindi vedere la partita da due angolazioni diverse e alla fine distinguere tra le caldarroste più saporite di chi ha vinto e quelle un po' più amare di chi ha perso, bene, beati voi e complimenti sinceri. Preziosi ha motivato a lungo, in maniera molto articolata, il licenziamento di Gasperini. Sentiamo. Oggi resta solamente il dolore di un rapporto di affetto e di stima, perché sono straconvinto ancora oggi che il nostro mister, quello che era fino a ieri il nostro mister, è uno dei migliori preparati che ci siano in Italia in questo momento. Ci sono, se io l'ho detto ai ragazzi, se ascolto il cuore, probabilmente non farò mai quello che ho deciso oggi. Ma c'è qualcosa che di pancia ti dice che ci sono dei momenti dove devi riflettere, dei momenti in cui devi intervenire. E questo è il momento che io mi sento tirato e quindi ho dovuto intervenire. E non ci sono motivi personali che pur qualcuno ha cercato di tirar fuori. Sicuramente qualcosa non andava, come ma questo già sul finire dell'anno prima, mi sembra, no? Io lo ringrazio pubblicamente, se potessi dirgli, gli direi: Giampiero, sai che ti rispetto e ti voglio bene, ma oggi le nostre strade si dividono. Tutto qua. Questo era il congedo, diciamo, di Preziosi a quello che per 4 anni e mezzo è stato l'allenatore del Genoa, e che insomma a Genoa qualcosa ha combinato di buono, e secondo me tracce già ne ha lasciate e ne lascerà. Poi ovviamente sono i primi genovani, come sempre in queste occasioni, ad augurarsi di dimenticare Gasperini il più presto possibile. Questo vorrebbe dire che il sostituto Ballardini funziona. Sentiamo come si è presentato. Mi ha chiamato per sentire se a me faceva piacere, ecco, incontrarlo, e questo è quanto. Poi dopo ci siamo rivisti. Vogliamo avere una squadra, vogliamo averla proprio tutta la settimana, vogliamo viverla tutta la settimana. Detto questo, la nazionale Under 21 non mi ha mai cercato. È un ambiente che ti coinvolge molto, mi pare di aver capito, ecco, molto coinvolgente, quindi tutto questo da una parte ci responsabilizza molto, ma dall'altra ci fa anche un enorme piacere. Il Genoa ha, credo, un'identità precisa, e quindi vedremo, rispettando le caratteristiche dei giocatori, anche l'identità che si voleva dare alla squadra con questi giocatori. Di sicuro finora in questa vicenda ci sono due persone che rischiano, una è Preziosi e l'altra è Ballardini. C'è una persona che ha perso per il momento, che ci ha rimesso, che è Gasperini, e c'è una persona che si è fregata le mani non poco a partire dalle 2:30 di notte, se è credibile, ma lo è certamente, la ricostruzione del Corriere della Sera, secondo cui la telefonata di Preziosi a Lotito per liberare Ballardini, che era ancora sotto contratto con la Lazio fino al prossimo 30 giugno, alle 2:30 di notte sarebbe arrivata questa telefonata, e Lotito è vero che nel pomeriggio ha perso il derby, ma con quella telefonata è stato sollevato di circa 1 milione di euro, no, perché qualcuno qualche mese di taglio era già corrisposto nel frattempo, ma insomma diciamo che era stata una telefonata da un 600-700 mila euro circa, che grosso modo dovrebbe avergli, come dire, alleviato il dispiacere del post derby. Alberto ha chiamato da Pescara, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Una curiosità personale, perché però è interessante su quello che l'argomento della trasmissione con cui avete aperto all'inizio. Mi è capitato di vedere un film ultimamente che era il maledetto United, non so se lei l'ha visto, no. Che parlava della carriera, suppongo, una biografia di un allenatore inglese, Clough, che è stato l'allenatore che poi ha vinto 2 coppe campioni consecutive con il Tottenham, se non ricordo, o l'Aston Villa, uno dei due, alla fine degli anni Ottanta. all'inizio degli anni Ottanta, che si veniva descritto nel film come una sorta di Mourinho anche ante litteram, insomma, del periodo e compagnia bella. Se sapeva qualcosa della carriera di questo allenatore. Sarà stato del Tottenham non sicuro. Forse Aston Villa, il Nottingham Forest. Però siccome era particolare e curioso. E poi un'ultima cosa, io sono stato a Roma a vedere il derby, adesso sono romanista e compagnia bella, e rispetto a quello che diceva quella mail precedente, devo dire che è stato un peccato per me che sono romanista che l'Aquila non ha potuto fare il giro dello stadio, perché c'era gente che gli avrebbe tirato addosso di tutto, fischietti, piccioni, quello che doveva essere, che ripeto, da romanista, vedendo la girata dello stadio, comunque era un animale bellissimo. Questo era quanto volevo dire, tutto qua. Grazie Alberto. No, comunque non ho letto la storia di questo tecnico e non ho visto al momento almeno questo film. Alessandro, provincia di Firenze, buongiorno. No, allora, due rapidissimissime premesse. Io sono un sostenitore dell'Inter e sono, diciamo, da un punto di vista calcistico una vedova di José Mourinho, un allenatore che almeno da un punto di vista calcistico, fuori dal campo no, ma in campo secondo me ha lasciato tanto, ha insegnato anche tanto. Però ecco, al di là di questo, io volevo sapere che cosa ne pensava. Non crede che se Moratti si fa balenare l'idea di sostituire Benitez dopo appena 10 giornate, l'Inter rischi di rifiombare in quella schizofrenia morattiana di ante 2005-2006 che ha portato niente titoli, grande perdita di soldi e ci ha coperto anche di ridicolo per tanti anni. Io credo che l'unico sistema per andare avanti, per vincere, ma comunque per rimanere a alti livelli, perché vincere è importante, ma non è obbligatorio, non si può sempre vincere, sia quello di prendere una strada e perseguirla con forza, con convinzione. Prendere un allenatore e cambiarlo dopo 10 giornate, dopo non avergli comprato nemmeno un giocatore, io credo che sarebbe, insomma, cosa abbastanza sciocca per usare. Credo anch'io, Alessandro, che non avrebbe senso, ma non penso che sia un problema in agenda attuale. È vero che nel calcio di oggi, schizofrenico com'è, ma di oggi e di ieri, forse non dell'altro ieri, ma di ieri sicuro, insomma, una via di fuga comunque è sempre bene averla, è sempre bene tenerla presente. Poi magari bisogna avere l'avvertenza, questa soluzione alternativa di non lasciarla trapelare. Ecco, questa potrebbe essere una buona norma, cosa che non sempre, come è noto, insomma, nel nostro calcio non sempre si osserva proprio come norma, come. Ma sentiamo proprio Moratti a proposito, no, non certamente di questo argomento, perché le ripeto, sono indiscrezioni, non si sa nemmeno quanto fondate, magari proprio poco. No, Moratti a proposito invece del vero problema dell'Inter, che è quello degli infortuni. Guardando la situazione degli infortuni dall'inizio dell'anno, penso che noi stiamo facendo un campionato più che dignitoso, cioè ci stiamo muovendo bene, perché la situazione era ed è difficile, quindi è importante per noi ritornare con i giocatori tutti validi a rigiocare il campionato in termini tali di essere allo stesso livello degli altri anni. In questo momento non possiamo esserlo perché abbiamo troppi infortuni. È statistico che quando c'è un cambio proprio di allenatore o di metodo, un po' ce l'hai. Il metodo non è stato cambiato tanto, perché più o meno anche quest'anno si usa molto il pallone e poco va esercizio atletico. Però è così, stiamo guardando, stiamo cercando di capire, di evitare lo stesso tipo di infortunio. Questa è una mail invece leggermente più impegnativa, che è arrivata 3-4 giorni fa e che ho letto con enorme piacere soltanto stamane. La sintetizzo e ne leggo soltanto l'ultima parte per ragioni di tempo e di spazio. A settembre è firmata Agostino Ghiglione, Roma. A settembre, non tollerando che lo Stato potesse impedirmi alla mia età, questo signore non è giovanissimo, di vedere eventualmente una partita di calcio, ho fatto ad ogni buon conto domanda per la tessera del tifoso, che nel mio caso chiamo tessera della libertà. L'ho richiesta da 2 mesi e non l'ho ancora ricevuta. Nel frattempo ho rinnovato il passaporto, tempo 10 giorni, mentre la carta d'identità mi è stata rilasciata allo sportello contestualmente alla mia richiesta. Con l'uso di una semplice password opero sul mio conto corrente disponendo bonifici e pagando utenze disparate, ma la tessera per vedere eventualmente una partita che qualcuno potrebbe definire a rischio, niente. Una più fortunata di me, a nome Rubi, il giorno dopo aver compiuto 18 anni ha ricevuto il permesso di soggiorno in Italia. Questa sì che è efficienza. Ecco perché i nostri figli, che per i loro meriti hanno varcato il confine, non pensano minimamente di ritornare. Quando io non potrò più utilizzare la tessera del tifoso, ammesso che poi arrivi, La metterò in un cassetto dove conservo la collezione di mini assegni da 50, 100, 150 e 200 lire messi a cavallo del 77 e 78, quando la zecca non era in grado più di coniare monete. Vi è una mini storia dell'Italia da Trento al Salento, un ricordo magnifico del popolo dei navigatori, inventori, poeti, ma anche di grandissimi cialtroni. Cordiali saluti, Agostino Ghiglione, Roma. Mi è sembrata questa lettera davvero un appendice dello stupendo programma di ieri sera di Fazio e Saviano. Intervallo per sentire come va sulle strade. C'è un ascoltatore in attesa da qualche minuto, gli chiedo scusa. Augusto da Macerata, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, io non per fare polemica, però vorrei precisare una cosa. Il fallo di Krasic a Bologna è stato evidente e tutti quanti siamo d'accordo. Io sono un tifoso juventino, però vorrei sapere una cosa. Per quale motivo il pugno di Gattuso a Del Piero non è stato così enfatizzato come quell'episodio lì? Per la semplice ragione che nessuno l'ha visto, cioè, quello di Krasic era un colpo di teatro a scena aperta. Il pugno vero presunto di Gattuso Del Piero nel corso di un'azione è stato un episodio che nessuno è riuscito a vedere, e quindi questa è credo l'unica spiegazione possibile. Cioè, ci sono degli episodi che sono plateali e ci sono degli altri che invece sfuggono. La spinta di Battista domenica a questi due della Lazio che cadono e si impastano tra loro, cadono, cioè, la spinta c'è, però la si vede dopo, cioè la si vede scomponendo le immagini, perché a velocità normale Battista è stato abbastanza furbo e quegli altri comunque, forse anche senza la spinta, si stavano leggermente impastando perché erano andati in due su una stessa palla. E invece ci sono azioni a campo libero che sono plateali, insomma, no? come quella di Krasic, su cui, insomma, mi sembrerebbe che a tre settimane data circa, no? Cioè, lei chiama anche la Macerata è la città che adoro. Due anni fa ci ho visto una Traviata stupenda, l'anno scorso, quest'anno una magnifica Forza del Destino, l'anno prossimo c'è una, mi pare che sia il turno del ballo in maschera, e lei mi parla dopo tre settimane della caduta di Krasic. Mi rifugierei nel passato con la rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 novembre 1947. In un amichevole al Prater di Vienna, l'Italia perde 5-1 con l'Austria. Ma è una nazionale sperimentale, quella schierata da Vittorio Pozzo, che propone contemporaneamente campioni di diverse generazioni, come il capitano Silvio Piola, Valentino Mazzola e l'esordiente Giampiero Boniperti. Il gol della bandiera azzurro lo segna all'89esimo un altro debuttante, l'attaccante del Milan, Riccardo Carapellese. Beh, lì c'era veramente il passato e il futuro in quella partita, sia pure finita in maniera così, così ingloriosa, no? Perché il Piola capitano, reduce da un mondiale vinto 9 anni prima, ma che comunque era il precedente campionato del mondo, che poi era stato sospeso per la guerra. Valentino Mazzola, simbolo del grande Torino, che da lì a un anno e mezzo avrebbe fatto la fine che ha fatto, e un esordiente come Boniperti, che avrebbe fatto da lì in avanti, prima sul campo e poi dietro la scrivania, la storia della Juventus. Il 9 novembre, mi segnala anche Nicola Filippone, beh, intanto è il compleanno di Del Piero, e questo e questa è cronaca, e non serviva nemmeno a Filippone, che però invece ha pescato che oggi compie 50 anni Breme, e questo, voglio dire, ai tifosi dell'Inter qualcosina ricorderà. Il 9 novembre 97 i tifosi dell'Inter ricorderanno anche che fu il giorno in cui morì a Venezia Elenio Herrera. Torniamo alle voci che Franco Piantanida ha selezionato per la puntata di oggi. Ce n'è una molto interessante, ed è quella del presidente della Sampdoria Garrone a proposito del caso Cassano. Chiesta di deferimento al collegio arbitrale di Antonio Cassano, cioè non si cambia questa linea. Fare una mia valutazione sulla sua intervista che è uscita, dice nella sua intervista, io ho visto quella, che lui non ha detto, non mi ha rivolto quegli insulti, cosa che ha fatto ripetutamente. Credo che sia stato singolare per molti che l'hanno ascoltato, e lui dice: ma che faccia tosta, queste cose sono state dette, l'hanno sentito un gruppo di tifosi, l'hanno sentito tutti i suoi colleghi, lui dice che non l'ha detto. E mi sono sbagliato, ho detto aveva ragione Del Neri quando mi ha detto: vedrà che anche lei un giorno con lei si comporterà come si è comportato con Sensi col presidente del Real Madrid. Io dico: assolutamente non ci posso credere. E invece prima o poi il conto viene presentato a tutti, no? Il conto di non saper vivere, del non saper stare al mondo. Angelo, provincia di Bari, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Volevo intervenire a proposito del Genova e dell'esonero di Gasperini. Sì, spenga la radio per cortesia. No, la radio sì, non proprio, cioè, butta giù il telefono, no, spiega la radio perché quando intervenite e la radio rimane accesa c'è questo spiacevole effetto. Angelo, proviamo a ripescarla, adesso però le ripeto, spiega la radio, no il telefono. Roberto da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Io volevo intervenire riguardo alle polemiche che ci sono state in verde, dei rigori, espulsioni che andavano fatte. C'era stato scritto anche da Nosito sul giornale che andava espulso Rise per il fallo che aveva fatto su Mauri. Ma io volevo ricordare però a Nosito che se andava espulso Rise andava espulso di Steiner. Roberto, mi fa la cortesia, lo ricorda direttamente a Lotito, no? Invece di infliggerlo a tutti noi anche. Per carità, volevo dire un'altra cosa. Ecco, bravo. Riguardo a al rigore che è stato dato all'Inter su Eto'o, sì, che è cascato sul pallone, ma lì la prova TV non può fare nulla? No, direi proprio di no, perché non è una simulazione. Lui mette il piede sul pallone. Guardi, ci sono stati tre sconti domenica, no? Tre facilitazioni che curiosamente sono tornate a riguardare l'Inter e Milan e la Juventus, no? Nel senso che all'Inter hanno, diciamo, pure regalato un rigore, alla Juventus invece pure, sia pure in maniera leggermente, ma insomma direi che è un regalo che si equivale. Al Milan ne hanno bonificato uno, perché l'uscita da Biati era nettamente da rigore. Io credo che non vorrei illudermi, anzi sicuramente mi sto illudendo, ma il calcio sta un tantinello maturando, nel senso che non ho visto grandi polemiche su queste concomitanze che in una stagione normale sarebbero inquietanti, secondo me, e quest'anno almeno per il momento non lo sono, perché mi pare che il contesto non induca a pensare che si sta cercando come sempre di tirare la volata a chi va per la maggiore, no? E quindi prendiamole come sono state prese fino adesso, e cioè come tre errori o comunque come tre valutazioni un po' ardite da parte degli arbitri. Angelo ha chiamato la provincia di Bari, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Dica. Volevo intervenire a proposito dell'esonero di Gasperini. Sì. Facevo una riflessione su quanto sia diverso il calcio italiano e il calcio inglese. Nel Manchester e nel Liverpool probabilmente se avessero giocato in Italia non ci sarebbero gli allenatori che ancora dirigono le squadre. Vorrei un giudizio da parte sua su questo atteggiamento e questa mentalità italiana che non sa accettare una sconfitta di fronte a un allenatore bravo come Gasperini. È una riflessione non inedita, Angelo, no? Nel senso che c'è poco da fare. Io credo che questa tendenza all'insofferenza da risultato l'abbiamo anche un po' esportata nel tempo, poi certamente non a Manchester, ma altrove direi di sì. Un tempo c'erano meno esoneri all'estero, adesso credo che un minimo il calcio italiano abbia fatto scuola da questo punto di vista. Da noi far scuola, insomma, già quest'anno hanno resistito tanto i presidenti, sono arrivati alla nona giornata senza aver cacciato nessuno, non potevano reggere oltre ed è toccato a Preziosi rompere il ghiaccio. Sono sempre i migliori, no? come è abbastanza noto. C'era Franco Piantanida in redazione, c'era Fabio Cantadori in regia. Grazie a tutti e appuntamento a domani.